Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Di lui Fabrizio De André ha detto: mai visto un musicista comunicare col pubblico come sa fare Luciano. In effetti, sono pochi i casi nella scena italiana di musicisti così abili a raccontare se stessi e il proprio pubblico, così autentici nel mettersi sempre in gioco e così profondi nella costruzione di una costante narrazione di miti e figure appartenenti al proprio universo poetico. Lui è Luciano Ligabue. E oggi vi racconteremo i magnifici destini che lo hanno reso uno dei rocker più amati del nostro paese. Il primo Ligabue è quello dei primi album, per intenderci, quelli che lo hanno portato all'attenzione del grande pubblico. È una creatura musicale originale, una specie di anello di congiunzione tra la generazione dei cantautori e i rocker più duri. Uno dei temi centrali della poetica di Luciano Ligabue è il racconto vivo, dettagliato, sentito del microcosmo culturale e sociale che caratterizza la vita di provincia. Nella Bassa Padana, a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, Luciano Ligabue è nato, cresciuto e, a dispetto della sua statura di rockstar, vive tuttora. Luci e ombre, bellezze e storture di questi luoghi che hanno accompagnato la lunga gavetta del rocker vengono magnificamente dipinti nei pezzi che hanno portato il Liga al grande successo. Cadabra, cadabra, cadabra, abra, si fa chiamare zingaro, ma uno zingaro di lusso e lo sa. Lo sa. Continuo a vivere lì, non sono mai mosso da lì, sono 52 anni che vivo lì. Ho avuto, come chiunque, credo, l'impulso di andartene da dove sei quando sei attorno ai 20 anni. Cioè, sono rimasto a Correggio, che è una realtà in cui continuo a trovarmi bene. L'ho raccontata molto, e non solo attraverso le canzoni, ma spesso mi chiedono di raccontare il mio rapporto con la cittadina. Una gavetta lunga, interminabile. Ligabue è uno di quegli artisti che il successo se l'è davvero guadagnato con fatica e tenacia. Un percorso difficile che ha permesso al rocker di Correggio di mantenere sempre un profilo basso e un'attitudine umile e disponibile. È una vita da mediano, è la classica canzone, con un registro un po' sbagliato, del tipo... pieno di sensi di colpa come io sono, in quel momento mi sentivo in colpa per il successo che avevo. Per giustificarlo io dovevo dire: scusate, ho questo successo, ma almeno sappiate che mi spolmono, corro tanto, fatico tanto. Una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. E allora vediamolo insieme, questo lungo percorso che Luciano Ligabue compie prima di esplodere definitivamente con l'album Ligabue del 1989, registrato a 29 anni, un'età già abbastanza avanzata per il debutto di una rockstar. Diciamo che un primo debito, se così si può chiamare, Ligabue ce l'ha con un suo concittadino illustre, lo scrittore Pier Vittorio Tondelli, come lui di Correggio, di cui il rocker diventa presto un fedele lettore e che lo attrae e lo segna per il linguaggio crudo e aperto con cui ritrae il popolo della notte della provincia emiliana. Io ero rimasto veramente folgorato dal suo primo libro, Altri Libertini. È stato un libro che credo che abbia liberato un po' di animali dalle gabbie, secondo me, perché ha aperto un po' il respiro a tanti, mi sembra. Io ho questa sensazione. Io avevo 20 anni quando è uscito, ed ero proprio in una fase, tra l'altro ero militare, quindi stavo malissimo, proprio non riuscivo ad accettare il fatto di dover buttare via l'anno fra i 20 e i 21, che non è un anno da niente, nella vita di una persona, imprigionato in una caserma a fare l'artigliere da montagna a Belluno. E quel libro lo comprai in una delle 3-4 licenze che mi diedero durante tutto l'anno, rientrai e siccome era stato sequestrato, mi sorprese il fatto che un suo libro, tanto che lui avesse pubblicato un libro per un editore importante, ma che addirittura fosse stato sequestrato, l'atteggiamento quasi da pusher, lui prese il libro guardandosi attorno, lo mise in un sacchetto bianco, me lo passò sotto banco e quel libro mi colpì tantissimo, intanto perché è un libro fortissimo, il primo racconto fa quasi male. È la notte di alcuni tossici in una stazione, fra crisi d'astinenza, pere fattesi di straforo. Un'altra cosa sorprendente era che quel racconto era pieno di bestemmie, che erano ogni volta, non che fosse per forza una cosa bella, ma rientrava comunque nella sincerità di un linguaggio comprensibile in quel contesto. Solo questo vi voglio dire. Credete a me, lettori cari. Bando a isterismi, depressioni, scoglionature e smarronamenti. Cercatevi il vostro odore e poi ci saranno fortune e buoni fulmini sulla strada. La realtà vivida è quella ovviamente di Correggio, paese dove Ligabue è nato il 13 marzo 1960. Pier Vittorio Tondelli, in un altro suo libro, Camere separate, descrive il paese in questo modo. Un piccolo borgo della Bassa Padana, con i portici, l'acciottolato sul corso principale, la basilica dedicata al patrono, il palazzo rinascimentale, le torri, i campanili, la rocca, le vecchie case ottocentesche del centro, alcuni palazzi del Settecento, la struttura urbana rimasta intatta e raccolta attorno al circolo delle vecchie scomparse mura. In questo scenario Luciano Ligabue cresce, si diploma in ragioneria e intraprende diversi lavori, tra cui il bracciante stagionale, il metalmeccanico, il ragioniere, e per un periodo lavora anche con il padre, che ha un magazzino di pellicce. Attorno e accanto a lui gli amici, tanti, con cui confrontarsi, uscire, abbandonarsi a goliardiche bravate, sbronzarsi. Vivere tutta una vita in una piccola cittadina vuol dire farti avere almeno sotto mano alcune piccole certezze. Fra queste, gli amici. E con questi amici un'unica grande passione in comune, il rock. Sogni di rock and roll, guai a chi ci sveglia. Sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, sognando al meglio. Anni 70, anni di radio libere, mentre il futuro rivale Vasco si lancia a pochi chilometri di distanza nell'avventura di Punto Radio, Luciano collabora per circa 2 anni come animatore radiofonico presso Radio King, poi Radio Attiva. All'inizio degli anni 80 Luciano compone i primi pezzi che porta anche sui piccoli palchi della provincia emiliana, tra club e feste dell'Unità. Canzoni come 100 Lampioni o Al Poi Ci Penseremo. Io ho scritto per tanti anni canzoni bruttissime, prima di cominciare a fare questo mestiere, diciamo così, in maniera professionale, mestiere, insomma, chiamiamolo mestiere, il mestiere di cantare, e perché erano canzoni altamente pretenziose, erano brutte non tanto per il, diciamo così, per la musica che c'era dentro o per le parole che c'era dentro, ma perché erano tutte estremamente pretenziose. E quando ho trovato invece modo di far sì che la mia voce fosse vera, cioè raccontare le cose che conoscessi, le cose che io vedevo, le cose di cui ero totalmente al corrente e casomai non erano così interessanti per altri, ma ovviamente per me lo erano, e quindi chi voleva seguire queste cose era benvenuto, questa cosa giustificava tantissimo tante altre cose, quindi mi ha messo la condizione di trovare la mia chiave e da lì è partito tutto, quindi comunque sicuramente quel libro è stato decisivo. Grazie alla lettura di altri libertini di Tondelli, libro che gli è rimasto nel cuore, Ligabue compone i primi pezzi di una certa efficacia. L'importanza di Tondelli, lo scrittore maledetto degli anni 90, morto di AIDS a soli 36 anni, nel songwriting di Ligabue, è raccontata magistralmente anche da un altro episodio di qualche anno successivo che il rocker ci restituisce così. Io praticamente per un anno ho vissuto nello stesso condominio dove vivevano i genitori di Tondelli. E quindi ogni tanto lui, quando tornava a Correggio, tornava lì. E nel dicembre del 91, adesso non ricordo bene il giorno, io dovevo fare un concerto a Modena, un concerto comodissimo, per cui mi stavo prendendo comodissimo. La mattina mi alzo tardi, mi preparo un pochettino per uscire, cioè qua sto per uscire e di colpo mi viene una febbre altissima. È stata l'unica volta che ho annullato un concerto in vita mia. E ho passato l'intera notte quasi in delirio, girando con una coperta per casa, non riuscivo a dormire, cotto dalla febbre nell'aria pluviale. Tre piani più sopra, quella notte, lui moriva, lui spirava. Al di fuori di queste passioni letterarie vissute con intensità e visceralità, ci sono ovviamente le passioni musicali di Ligabue, che sono tutte orientate al rock, ad esempio i Rolling Stones. Insomma, per fare il rock a Liga composte le canzoni serve una band. Così il destino gliene mette sulla strada una che ha bisogno di lui. Il tutto avviene una sera di luglio del 1986. Una sera calda, senza aria. Una sera di quelle in cui la bassa sembra immobile, scossa solo dal ritmo ossessivo delle cicale notturne. Lo scenario è una vecchia stalla alle Mizzone, una frazione di Correggio dove un gruppo di ragazzi ha ricavato una sala prove. Luciano Ligabue, tramite un'amica, è stato messo in contatto con loro. Si presenta all'appuntamento con il suo scenografico maggiolone blu, accompagnato dalla sua ragazza. Ad accoglierlo il leader del gruppo, il primo magnifico destino della carriera di Ligabue, Alberto Imovilli, e il batterista della band, che si chiama Ora Zero. Dopo le presentazioni, le strette di mano di rito, si viene al dunque, le presentazioni musicali. Alberto decide di far sentire a Liga una cover per mostrare lo stile della band. I ragazzi eseguono Limelight, dei Rush. La band era stata fondata tra il 1985 e il 1986, quando Imovilli, detto Imo, e i compagni Bobby e Sisi partecipano attivamente alla preparazione di un musical suonato e cantato dal vivo. Questa esperienza li spinge poi a formare un gruppo stabile, specializzato in cover dei Rush e dei Dire Straits. Il desiderio di passare dalle cover a composizioni inedite li spinge a cercare un frontman che fosse anche autore. Imo, una sera, tramite un'amica di Correggio, era venuto a sapere di un ragazzo che stava cercando un gruppo per formare una rock band, e quel ragazzo era proprio Luciano Ligabue. Poi tocca a Luciano. Il Liga fa sentire alcune canzoni scritte da lui. Sogni di rock and roll, Sì ma tu chi sei, La ballerina del Carillon, Hong Kong. Il trio rimane molto colpito all'ascolto dei pezzi, apprezzando soprattutto i testi. Le due parti si piacciono e viene fondato il gruppo. Manca una chitarra e Luciano introduce nella band l'amico Bruno Pederzoli, ottimo per l'accompagnamento. A settembre del 1986 si comincia a provare a dare un sound alle canzoni di Ligabue. Il metodo di lavoro del gruppo è abbastanza semplice perché Luciano arriva già con le idee chiare, spesso anche con i riff di chitarra e come strutturare il brano. Poi c'era la collaborazione del gruppo. L'8 febbraio 1987 avviene il debutto nella sala Lucio Lombardo Radice di Correggio. Molti dei pezzi che suonano sono ancora noti ai fan di Ligabue. Da questo concerto nasce anche la collaborazione assidua con Claudio Maioli, l'uomo incaricato di cercare contatti per i concerti e destinato a diventare il manager di Ligabue. Maioli cura anche la grafica del logo e del primo volantino, che oggi è storia e un pezzo da collezione. Il gruppo decide di non eseguire mai cover durante i concerti, ma sempre e solo i brani di Ligabue. La svolta avviene nel 1988 presso il Marabù, una discoteca di Reggio Emilia dove si tiene la finale del Terremoto Rock, un concorso per artisti emergenti. Ligabue e Ora Zero vincono il primo premio, l'incisione di un 45 giri per il quale scelgono Bar Mario, Anime in Plexiglass. Sempre al Marabù, il 28 e 29 novembre 1988, Ligabue e Ora Zero partecipano al primo concorso nazionale per gruppi musicali. I primi 8 classificati saranno inclusi in una compilation in vinile registrata dal vivo. Ligabue e Ora Zero non vincono la manifestazione, ma entrano nella compilation con il brano El Gringo. Vincitore della rassegna è un gruppo che si farà conoscere negli anni successivi, gli Alma Megretta. Raggiunta una discreta notorietà, mentre a Liga piovono le prime offerte artistiche importanti, la band inizia a sgretolarsi. Motivazioni lavorative, scelte personali che ogni membro del gruppo è costretto a porsi. Seduti al tavolo di un bar, Ligabue e gli Ora Zero si separano amichevolmente. L'ultimo concerto va in scena il 1 maggio 1989, proprio a Correggio. I magnifici destini. Il 27 maggio scorso, Luciano Ligabue, per la prima volta nella sua carriera, è salito sul palco di un vero e proprio tempio della musica come la Royal Albert Hall di Londra. È stato un grandioso successo, un vero e proprio bagno di folla, un concerto duro, straordinario. Il Liga ha iniziato il suo set alle 20:15 con sottobombardamento e ha terminato solo 2 ore dopo con una dedica a Pier Mario Morosini, il calciatore iscritto al fan club Bar Mario e scomparso in campo lo scorso aprile durante una partita. Un concerto di quelli da non dimenticare, chiuso con la semplicità dei grandi. A proposito di questo, permettetemi di salutare chi non capisce l'italiano. Hello, this is for the few non-Italian guys. Dagli inizi con gli Ora Zero alla Royal Albert Hall, il passo è lungo, lunghissimo. Il secondo incontro decisivo per il decollo di uno dei rocker più famosi e celebrati del nostro paese avviene quasi contemporaneamente allo scioglimento della band. Il secondo magnifico destino di Luciano Ligabue è rappresentato da un manager storico per la musica italiana, Angelo Carrara. La storia dell'incontro tra Ligabue e Carrara viene mediata dall'interesse che per il rocker di Correggio dimostra Pierangelo Bertoli. Un demo con dei pezzi di Luciano giunge nelle mani del cantautore di Sassuolo, che ne rimane impressionato e chiede a Luciano il permesso di incidere Sogni di rock and roll e di inserirla nel suo nuovo album Tra te e me. Ligabue è lusingato. Sogni di rock and roll, loro hanno sogni di rock and roll, e guai a chi li sveglia. Sogni di rock and roll che fanno sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, sognando al meglio. Angelo Carrara, che avrà davvero un'importanza centrale nella vicenda artistica di Ligabue, è stato uno dei grandi nomi del progressive italiano degli anni 70, prima come musicista nella band Le Mani e poi come produttore. Negli anni 80 contribuisce al successo di nomi come Baccini, Mango, Battiato e lo stesso Bertoli. Carrara, nel 1990, decide di far debuttare quel rocker ormai non più giovanissimo per l'esordio, ha già 29 anni. Produrrà il suo primo album. Un problema, gli Ora Zero si sono sciolti e il Liga deve trovarsi un'altra band per non perdere l'occasione che Carrara gli ha offerto. In Emilia, terra di felicissime contraddizioni e di grande varietà culturale, può veramente succedere di tutto. Può capitare di ascoltare un gruppo che si chiama Pechino Politic, che però canta in inglese, ma si esibisce in un locale chiamato Vienna e fa pensare ai Simple Minds. Questo è quello che è successo a Ligabue poco prima del suo primo album. Nei Pechino Politic militano un certo Gigi Cavalli Cocchi alla batteria e Max Cottafavi alla chitarra. La metà esatta di quelli che diventeranno i Clandestino, un pezzo importante della carriera del Liga. Luciano, colpito positivamente dal loro sound, chiede espressamente a Gigi, personaggio molto conosciuto della scena musicale reggiana, di dargli una mano nel costruire una band. In quel momento ero particolarmente fan dei Simple Minds. E inoltre sapevo che Gigi in qualche modo era una figura abbastanza centrale del panorama musicale di Reggio, cioè, perché comunque evidentemente aveva avuto modo di mettersi in... cioè era famoso fra i musicisti di Reggio, certo. Per un motivo o per un altro, cioè sapevo che avevi questa biglieria, ti ho chiamato e quindi ci siamo incontrati in questa biglieria, così è andata. Le vite musicali di Gigi Cavalli Cocchi e Luciano si erano già incrociate in precedenza. Gigi era infatti tra i giurati al concorso nazionale per gruppi musicali di base che dà il massimo punteggio proprio a Ligabue e ai suoi Ora Zero. Ora, al tavolo numero 6 della birreria Casablanca di Reggio Emilia, tre persone stanno costruendo un piccolo pezzo della storia della musica italiana recente, anche se non lo sanno ancora. Liga chiede a Cottafavi di riutilizzare nei suoi pezzi quei suoni pieni di delay e distorsioni che usava per i pezzi del suo gruppo, quelli in stile Simple Minds. Poi fa ascoltare ai suoi futuri musicisti il demo. I tre si accordano. Sta per nascere la band che darà il vita al primo album di Luciano Ligabue. La sala prove è ricavata nella casa di Cavalli Cocchi. Qui iniziano le prove per arrangiare i pezzi. Il combo era della prima prova a casa tua, nella tua sala prove, che poi divenne anche una cosa di cui io non mi capacitavo, perché poi io non credevo fosse possibile avere a disposizione un posto in cui non solo facevi le prove, ma potevi registrare le prove con il mixer, potevi addirittura usare gli effetti, potevi in qualche modo addirittura già provinare in un certo modo. Fino a quel momento per me le prove erano in una ex stalla, senza nessun mixer, con ognuno che si teneva l'ampli al volume in cui credeva, quindi una cosa molto empirica. La band è composta da Luciano, Gigi, Max Cottafavi e Luciano Ghezzi. Insieme daranno vita, con l'aggiunta del tastierista Giovanni Marani, ai Clandestino. Completate le prove, eccoci al disco. La registrazione dura 20 giorni. Avviene a Milano, lontano dalla provincia, nella grande città che forse mette un po' di paura e fa sembrare tutto terribilmente serio. Si registra negli Psycho Studio. Ingenuità, incoscienza, discussioni, tutto è magico in quel debutto che Luciano teme possa essere il primo e l'ultimo disco. Mette ordine il grande Paolo Panigada, compianto musicista polistrumentista degli Elio e le Storie Tese, scomparso nel 1998, che oltre a fare da fonico, si improvvisa produttore artistico, contribuendo in modo significativo alla riuscita del disco. Un disco che, sentito ancora oggi, spacca. Balliamo sul mondo è l'opener tellurica di un disco ruvido, diretto, forte. Le chitarre dal suono graffiante sbattute fuori, in prima linea, allo stesso livello della voce. Balliamo sul mondo, destinato a diventare uno dei grandi classici del Liga, è un buon esempio di quello che succede in quei 20 giorni. La canzone entra in studio col titolo di Eroi di Latte e cambia in corso di registrazione. La linea melodica rimane quella suonata ai tempi degli Ora Zero, ma il testo, inizialmente polemico nei confronti di chi più che fare musica pensa a fare marketing, diventa un'altra cosa, anche grazie all'intervento del produttore Angelo Carrara. Sono tanti, tantissimi i brani contenuti in questo debutto destinati a diventare classici del Liga. Da Bambolina a Barracuda, a Non è tempo per noi. Uno dei pezzi che segna maggiormente l'immaginario dei fan del Liga, però, è senza dubbio Bar Mario. Il buio arriva, ma non è troppo spietato, c'è qualche stella, è come un disegno spezzato. Il mondo musicale rimane quello della versione suonata con gli Ora Zero e fa da colonna sonora a una vera e propria carrellata di personaggi, attraverso cui Luciano racconta l'atmosfera da bar di provincia. Le immagini che rimanda sono talmente chiare e vivide che ognuno può ritrovarci i personaggi leggendari, semplici e provinciali della propria quotidianità. Da quella dimensione mitica, ingenua e tenera della provincia della Bassa Padana, il Liga spicca il volo con quel primo album. Temeva che avrebbe potuto essere il primo e l'ultimo. E invece è il trampolino di lancio di una carriera straordinaria, fatto di concerti, tour, milioni di dischi, film, libri, senza perdere però l'umiltà e lo spirito di chi sa osservare, divertito, i personaggi che popolano un qualsiasi barmario di provincia. I magnifici destini. Il 10 settembre 2005, poco fuori da Reggio Emilia, nell'area del cosiddetto campo volo, Luciano Ligabue è protagonista del concerto europeo con il maggior numero di spettatori paganti della storia, oltre 180.000 persone. La produzione è messa in cantiere per festeggiare i 15 anni di carriera, con quattro palchi che attraversano la vita artistica del Liga. Sul palco principale, la banda, il gruppo dei grandi successi, da Buon Compleanno Elvis in poi, con Federico Poggi Pollini, Antonio Righetti, Mel Previte e Roberto Pellati e Nicolò Bossini. Sugli altri palchi, Ligabue solo con voce e chitarra, Ligabue accompagnato da Mauro Pagani e Ligabue con i Clandestino, la band dei primi tre album. È un concerto memorabile che testimonia la grandezza di una carriera come quella di Luciano Ligabue. Luciano Ligabue nel corso della sua carriera si è affermato anche come autore di canzoni poi interpretate da altri. Del resto, uno snodo cruciale della sua carriera è stato l'incontro con Pierangelo Bertoli, che ha interpretato e inciso due canzoni sue, Sogni di rock and roll e Figlio di un cane. Anche nel pieno della maturità, Ligabue ha scritto pezzi di grande spessore per altri importanti artisti della musica italiana. Nel 2006 Elisa pubblica questo singolo, Gli ostacoli del cuore. È il primo singolo estratto dal suo nuovo album Soundtrack ed è composto da Luciano Ligabue, che duetta con Elisa nella parte finale della canzone. Quante cose che non sai dire, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme. La voce ruvida del Liga e quella angelica di Elisa si fondono perfettamente, in un finale molto intenso che permette al brano di rimanere nella top 50 dei singoli più venduti per oltre un anno. La storia degli ostacoli del cuore è abbastanza particolare, perché lui ha scritto questa canzone per me, a distanza, senza praticamente conoscermi. Io ero molto curiosa di sentirla e di conoscere lui, perché mi sembrava così strano, mi sembrava che c'entrassimo così poco, e invece ho scoperto che abbiamo un bel po' di cose. Conosciutisi quindi in occasione della composizione di questo brano, tra Elisa e Ligabue è nata un'amicizia e un rapporto di reciproca stima professionale. Credo che nella sua musica ci sia prima di tutto un'emozione da raccontare, una storia da raccontare. La melodia, il testo, tutto mi sembra, la percezione che ho io, che sia completamente attaccato a questo nocciolo a cui lui tiene. A me colpisce questa sua capacità di raccontare alla fine, perché la forma magari cambia, lo fa attraverso una canzone, attraverso una poesia o anche un film. Per me è una forza grande che ha, e anche il fatto che lo racconta con uno stile in realtà molto umile, perché si mette a servizio di quello che sta facendo. Ligabue dirige anche il videoclip della canzone, mettendo a frutto l'esperienza maturata come regista di successo dei film Radio Freccia e Da 0 a 10. Oltre che per Elisa, il Liga ha scritto anche per altri big della canzone italiana. Nel 2000 è la volta di Ho ancora la forza, scritta in collaborazione con Francesco Guccini. Poi, fine febbraio, scritta e cantata in duetto con Mauro Pagani. Le cose cambiano, scritta per Pierangelo Bertoli e cantata dal figlio del cantautore Alberto. E infine Io posso dire la mia sugli uomini, scritta per Fiorella Mannoia nel 2008. Qualcuno mi è solo sembrato, qualcuno l'ho proprio sbagliato e qualcuno lo sbaglierò, ma posso dire la mia sugli uomini. Il vero capolavoro autoriale e produttivo Ligabue lo compie all'inizio della sua carriera, quando letteralmente lancia la carriera di un'importante rock band italiana dei primi anni 90. Sono i Timoria. All'inizio del 1992 i Timoria sono la classica eterna promessa che non riesce a sbocciare. Così cambiano manager, ingaggiano Angelo Carrara, famoso in quel periodo proprio per la sua collaborazione con Luciano. Nel maggio dello stesso anno viene pubblicato Storie per vivere, un disco molto sentito dalla band, figlio del periodo di crisi. Il disco non decolla nelle vendite e il gruppo sembra avere perso la voglia di suonare. Così Carrara decide di far ripubblicare Storie per vivere con l'aggiunta di una canzone firmata dal suo pupillo Ligabue. Si intitola Male non farà. Ti posso offrire una bottiglia e spalle larghe porta guai. Ti posso offrire una bottiglia e spalle larghe, spalle larghe, spalle larghe. Il brano spopola e traina la ristampa dell'album. Ligabue stesso, rimasto impressionato dalle abilità del quintetto di Brescia, decide di aiutarli in primo luogo portandoli come gruppo spalla nel suo Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn Tour. In questo modo i Timoria si scuotono, decidono di tentare un ultimo disco, quello definitivo, quello del O la va o la spacca. Nel 1993, dopo aver lavorato incessantemente anche con i consigli del Liga, esce Viaggio senza vento, il disco della rinascita per il gruppo bresciano. Il lavoro sarà da loro stessi considerato il migliore, grazie alla sua importante forma di concept album e alla presenza di ospiti famosi come Eugenio Finardi, Mauro Pagani e Candelo Cabezas. Le radio cominciano a passare i brani del nuovo CD e le vendite decollano, permettendo al gruppo di aggiudicarsi il primo disco d'oro della sua carriera, grazie a oltre 40.000 copie vendute in meno di un anno. Segue un tour lunghissimo di 90 date in 10 mesi, che permette ai Timoria di farsi ascoltare da quasi 200.000 persone. Tra i concerti più importanti, sicuramente l'edizione 94 di Sonoria, festival rock italiano dal cast eccellente, che li vede sul palco con Sepultura, Helmet, Aerosmith e Whitesnake. Risveglia la città. Insomma, la carriera di Luciano Ligabue e i magnifici destini che l'hanno puntellata brillano ormai da più di 20 anni e continuano a renderlo uno degli artisti più amati e apprezzati della scena rock italiana. La sua energia e la sua carica dal vivo sembrano non conoscere flessioni. Il concerto alla Royal Albert Hall dello scorso maggio è lì a dimostrare che il Liga, a differenza di molti altri, ha conservato quella genuinità in grado di dare sempre ai suoi fan un colpo all'anima.